Ciao Antonino, iniziamo qui la nostra piccola intervista per Festival Blogosfere. Tutti sanno che tu hai vinto l'edizione 2005 della trasmissione Amici di Maria Di Filippi. Ma io voglio chiederti, come mai hai pensato che la strada di Amici di quella trasmissione potesse essere la strada giusta per te? Io 3 anni fa feci un disco demo che adesso gira su internet come rarità, per dirti l'assurdità, no? Questo disco demo io lo inviai a una decina di case discografiche, però non ebbi mai risposta. Sì, Come succede spesso. tra l'altro anche alla stessa discografica, casa discografica che con cui adesso ho il contratto, quindi ti lascio immaginare, è assurda questa cosa, comunque così. Ho provato a pensare, insomma, che forse Amici sarebbe stata l'unico modo per riuscire, insomma, ad arrivare a questo mio sogno. Ci hai provato E ci ho provato per ben 3 anni. Ho capito, Superavo senza tutte demordere. le selezioni, tutte, proprio tutte. Ballo, canto, recitazione. Arrivavo a settembre, alla puntata decisiva, E che cosa succedeva lì? e tornavo a casa. Ti mandavano a casa. Sì. Come mai? Motivazione? No, loro non danno Non danno comunque motivazione. motivazione. No, non danno motivazione. Poi Però. improvvisamente sei riuscita ad entrare. No, allora, il terzo anno Sì? cambio stile. Sì. Mi accorgo di. Cioè, diciamo che fino ai 3 anni prima avevo sfruttato la mia voce in una maniera, diciamo, più italiana. Sì, tradizionale italiana, Sì, diciamo. certo. Il quarto anno comincio a scoprire la musica black e cambio stile e mi accorgo che comunque sia la mia voce si adatta perfettamente. Certo, E provo in questa e questo maniera. lo sappiamo perché ti ascoltiamo, quindi ci rendiamo conto. E provo a portare un pezzo di Marvin Gaye, Sexual Healing, mi va bene, Stupenda. sì, bella, bella davvero. Per tutta la zona dei provini ho cantato soltanto Sexual Healing. Perché è quella che poi mi richiedevano ogni volta. E praticamente i ragazzi si ricordavano di me ogni volta. I ragazzi Perché che. Sì, per ogni provino a cui andavo, si ricordavano di me perché cantavo Sexual Healing. dice lui è quello che canta Sexual Lui è Healing. quello, no, lui è quello e basta. Lui è quello. Ok? E a settembre finalmente poi ce l'ho fatta. E da lì. Quando è che hai capito che potevi vincere? Allora, che potevo vincere io non sono mai stato sicuro. Però ho capito che rimanendo semplice come ero, la gente insomma si rivedeva in me, tipo in ballo, no? Un esempio a caso. Se io, cioè se io non avessi fatto come ho fatto, cioè riprendere me stesso, ho detto mi metto nei panni di una persona che sta a casa, che comunque sia non ha mai preso lezioni di ballo, viene catapultato in una gara di ballo e cosa fa? Cioè sul serio non si può prendere, Beh, no, perché perché altrimenti sarebbe ridicolo. E da questo punto mi diverto, faccio quello che riesco a fare e la gente comunque si è rivista a me anche per questo. cioè, hai dato il meglio di te stesso, Assolutamente. rimanendo te stesso. Assolutamente, senza prendermi sul serio, perché comunque c'era il ballo, sarebbe stato davvero inappropriato. Certo. Comunque, insomma, piano piano poi ho visto che ti eri Sì, ma mi anche sono anche sciolto, insomma, ti sapevi destreggiare anche in quelle discipline. sì, più o meno sì. Meno Senti. male sì. E con i tuoi compagni sono stati tutte rose e fiori oppure c'è Beh, stata qualche ad inimicizia? Amici comunque sia, sono 26 persone che comunque non si conoscono e convivono insieme per un anno, o perlomeno fino al serale. Quindi come succede in una qualsiasi classe scolastica di una qualsiasi scuola, no? Cioè, su 26 persone non ti possono essere tutti simpatici. Diciamo, questo è normale perché ci sono Cavolo, di cioè, caratteri sarebbe ipocrisia diversi. pura, cioè, Certo, non. no, ma diciamo, visto che avevate tutti la stessa finalità, che era quello di vincere la gara, la Certo, trasmissione. no, ti dirò, guarda, nei primi 4 mesi è tutto rose e fiori, perché tutti sono carini, tutti sanno che comunque sia non c'è l'eliminazione, no? Quindi si è tutti amici, e poi dopo il quarto mese che arriva il serale, giù coltellate alle si spalle. cambia, assolutamente, davvero, ti arrivano coltellate che manco te lo immagini, vabbè, io ho scelto una politica, quella di non mettermi in mezzo ai pettegolezzi, non stare in mezzo a liti. Io andavo alle lezioni di ballo, alle lezioni di canto, alle lezioni di recitazione e basta. E facevi, andavi per la tua strada. E Sì, tutto il resto non mi interessava. Perché questo comunque sia, cioè, non capita tutti i giorni di avere dei professori del genere. è. No, Assolutamente, certo. assolutamente. Quali sono quelli a cui sei rimasto più affezionato? Viteri? Sì. Viteri? Grazie di Michele e Fabrizio, quelli di canto praticamente, e Fabrizio Palma. quelli con cui avevi più a che fare, poi è la ballerina Maria. Ah, sì. Perché lei mi ha aiutato tantissimo. Spero che non ci fosse stata lei, mamma mia. Senti, ma veniamo al dopo Vittoria. Al dopo Vittoria, sì. Che cosa è successo? Allora, è successo che comunque sia, fin quando rimano in amici, se comunque sei in un ambiente protetto, certo, diciamo così, un po' mattato, non sai quello che succede fuori. Perché comunque noi lì non avevamo i cellulari, non ci arrivavano giornali. Vabbè, oddio, abbiamo saputo le notizie più importanti, tipo il Papa, insomma, le cose più, certo, importanti. Arrivato fuori, ho capito che, insomma, la gente ti riconosce per strada. Che sei diventato qualcuno. Hai una certa notorietà, comincio a prendere qualche aereo. Cosa per me davvero, cioè, ancora adesso non mi piace. Però vabbè, su questo sono d'accordo con te, anche io odio gli aerei. Guarda, io se riesco, prendo sempre il treno. Magari mi faccio anche 4 ore di viaggio tra Roma e Milano, però prendo il treno. Stai tranquillo. Sì, assolutamente. Poi mi rilasso, dormo un po'. Senti. E finalmente arriva anche il contratto discografico. Diciamo che il contratto discografico subito con Sony BMG? Allora, il contratto, no, prima ho conosciuto il produttore Mario Lavezzi. Sì. E abbiamo cominciato a valutare dei pezzi. Certo. E poi è arrivato il contratto discografico. Ah, quindi successivamente avete praticamente fatto, certo, un demo, certo, e certo, siete andati, insomma, sì, per offrire. Sì, sì, sì. Beh, comunque con Mario Lavezzi ho visto anche che alle tue canzoni collabora Mogol, cioè sì, mi sembra, sì, un bel team di lavoro. Allora, sì, sì, sì, all'album collaborerà anche Mogol. Perfetto. Infatti di questo ne vado. Senti, il brano. Perché davvero per me. Beh, Mogol è un mito, no? Sì, assolutamente sì. Senti, che volevo dire? Il tuo successo con questo singolo che si intitola allora, Ce la farò, ecco. Il primo singolo io lo considero un numero zero. Ti spiego il perché. Sì. È un punto di partenza. Proprio per tutte le porte che mi hanno chiuso in faccia, per tutti, no, guardi, la sua voce sì è particolare, però in questo momento non ci interessa, abbiamo solo interesse di altro. Poi magari le stesse persone che mi dicevano, guardi, non ci interessa, quest'estate dopo la vittoria d'amici sono fatte vie. Sì, ti vengono tutti a cercare. Certo, certo, queste punto. Poi sono le soddisfazioni più grandi della vita. Assolutamente sì. Perché io dico che guarda, Cristo esiste, quindi da me c'è questo detto, quindi voglio dire. Ed è stato così. Io, certo, ho lasciato perdere tutti, ho collaborato con Mario a scrivere questo testo. Mm-hmm. Quindi anche tu scrivi? Anche io scrivo, nell'album ci saranno anche un paio di pezzi scritti da me. Sia per i testi che per la musica o solo i testi? Uno anche per la musica. Ah, perfetto, quindi sei un cantautore. Possiamo definire, cominci ad essere anche un cantautore, sì, diciamo così. Senti, la tua immagine è l'immagine di un ragazzo molto semplice e molto simpatico, perlomeno da quello che mi arriva attraverso, ecco, la televisione dove ti ho visto, e questo piace molto. Ho visto che c'hai tantissime fan, tantissimi ragazzi e ragazze che ti seguono, che ti vogliono, no, ma bene. La cosa che all'inizio reputavo un po' strana è che ho anche tante fan tipo mamme, zie, insomma, gente di un certo livello, che comunque sia dopo il personaggio televisivo ce va oltre, perché magari la ragazzina di 12 anni, sì, è facile da affascinare, sta, certo, in televisione, c'è tutto il fascino, insomma, del piccolo schermo, mentre comunque sei una persona di età, sì, all'inizio può dire, ah, è simpatico, sta in TV, però dopo un po' magari nota anche magari la bravura, no? Certo. Quindi questa cosa mi fa davvero piacere, vuol dire che è arrivato anche il talento. No, no, il talento arriva la tua faccia da bravo ragazzo, che però comunque non vuol dire essere banali, significa, no, no, avere un'immagine positiva, ecco, tutto qui. E io sono una persona adulta, potrei essere tua madre, e mi arriva questa immagine, però apprezzo la tua voce perché riconosco che è una voce che non si trova tutti i giorni. E questo è il mio modestissimo parere, se ti può interessare. Ma certo. Comunque, ecco, io quello che ti posso dire è che sono molto contenta di questo risultato che stai ottenendo con il tuo singolo, e ho parlato anche con il tuo produttore, con Mario, che mi ha detto che... Non so se te l'ha parlato. Ci sono diversi problemi, perché comunque ci sono molti pregiudizi verso i ragazzi e gli amici. Questo immagino, perché stando un po' nell'ambiente si sente... Non solo a Sanremo, anche alle radio. C'è il mio singolo, sì, è passato pochissimo per radio. Perché magari storcono perché il naso e... Perché sono gli amici. Le radio si sentono sentono diciamo scavalcate da Maria, okay, perché Maria ha la TV e quindi si sentono un po' prevaricate, diciamo. Come se lei avesse un potere che va oltre quello che posso, e poi le radio si sa che comunque hanno un grande potere nella musica. Ma ormai è la volta, ormai sono delle vere società. Sì, sì, assolutamente, insomma, cioè, soprattutto quelle del music control, cioè è difficilissimo passare, insomma, certo, questo certo. Lo sappiamo. Per l'aspettativa io sono lì al terzo posto. Bene, no, questo mi fa immensamente piacere perché te lo meriti e ti dico, poi ho avuto anche delle esperienze molto belle, hai duettato con dei grossi nomi della musica. Qual è stata l'esperienza quella più che ti è rimasta impressa di più? Allora, a livello di persona, a livello emozionale, io non ho duettato con Laura Pausini. Sì. Però come persona è quella che mi è rimasta di più, perché è molto... E mi ricordo perfettamente quella puntata. Perché lei è molto tranquilla, è rimasta proprio con i piedi a terra, cioè è entrata, magari noi ci aspettavamo la star, che comunque cavolo, Laura Pausini vende quasi più dischi di Madonna in tutto il mondo, è davvero un fenomeno. È entrata, si è seduta in mezzo a noi, a terra, tranquilla, le hanno proposto di mettersi su una sedia, lei ha detto no, guardate, lascia stare, io sto bene così, e questa cosa mi ha colpito. È una ragazza che è rimasta semplice, ma è una grandissima artista, perché poi quando va sul palco... E poi ha una cosa in cui io mi rivedo, quando canta, le brillano gli occhi. Sì. E si vede proprio che cioè, gli piace farsi sentire, gli piace, forse è il mezzo di comunicazione che usa davvero per emozionare. No, ma la semplicità unita a questa forte dose di comunicativa ne fanno un personaggio unico e questo è. E mi auguro che tu possa percorrere una strada. Non uguale ma molto simile a quella sua, insomma, perché comunque ecco, è quella cosa che ti auguro. Che cosa ti aspetti da questo anno che è appena cominciato? Allora, l'anno, diciamo, sì, è cominciato insomma, con l'esclusione da Sanremo. Purtroppo. Però, sì, però è anche vero che sono terzo in classifica, quindi comunque sia il mio pubblico fortunatamente è rimasto fedele. Certo. Altrimenti non sarei mai arrivato a questo livello. Io mi aspetto che... Allora, ti dico, l'album si discosta un po' dal singolo. Mm-hmm. Il singolo è molto grintoso, nell'album ci saranno un paio di pezzi... classica chiave di Battisti, cioè assolutamente, sì. E qualche pezzo un po' lento, un po' ballad, no? Uh-huh. E qualcos'altro tipo di swing. Quindi qualcosa di più romantico anche, sì, se sì, vogliamo. Sì, io mi aspetto insomma che l'album vada bene, ma soprattutto nei live. Certo. Secondo me la cosa più bella per un artista è sentire la gente che canta le tue canzoni. Certo. E poi oggi... cosa, io sono proprio il ragazzo più felice della terra. No, ma poi oggi in un momento di crisi della vendita dei dischi credo che siano i live quelli che danno maggiori soddisfazioni, vero, no? E anche sono il modo di farsi conoscere al maggior numero di persone possibile. È vero. Senti, io ti auguro tutto quello che desideri. Grazie. Un bel po' di strada l'hai già fatta perché comunque sei già arrivato a ottimi risultati, hai vicino delle persone molto valide che ti aiutano. Io ti faccio i complimenti perché sei molto carino, molto disponibile. Grazie. E ti chiedo un favore in chiusura di questa intervista. Se puoi fare un saluto agli amici di Festival Blogosfere. Da Antonino al Festival Blogosfere, un saluto di vero cuore. Ciao a tutti.